alla soglia, l'un prete nelle nicchie ritardi, e della vergine accumula valori. E al corto orecchio un tremulo vegliardo in vano chiede a pane e in vano tende la mano. Morca e degli abituri lusso, amico mio, veste mia, ando il suolo, e l'eraria appena fazia, e contro a Dio scagliava, e contro gli uomini, le lacrime dei figli. In cotanta miseria, la patrizia prole, che fa? Guardate.